precedenza, non ce l'ho, ma uso l'H155, uso per l'impedenza e vediamo cosa ne viene fuori. Io la prima che avevo fatto era andata alla grande, non c'era secondo me differenza fra questa originale a quella autocostruita. Poi voglio fare anche questa nuova con questo nuovo sistema e vediamo, cioè il nuovo sistema, il nuovo non è proprio nuovo, ma dovrebbe andare bene, senz'altro, visto che lui ha fatto le prove anche a livello di ROS e ho visto che c'erano dei valori abbastanza buoni, dai. Ok, già, ok, fra. Sì, dai, adesso come cambia il tempo un po', non sappiamo cosa fare, dobbiamo inventare qualcosa. Io ho ancora quella manto, vado a riparare. Ma adesso il tempo lo stiamo usando per andarcene al mare con la famiglia e tutto, quindi arriveranno le brutte giornate, tra virgolette, diciamo. Vedi un po' se senti ancora Gianni. Ce l'ha con lui, Sì, ce l'ha con lui, ma anche ieri. Ieri ne ha dato una passata a tutti, anche a me e anche agli altri che erano con noi in ruota. E vabbè, evidentemente si diverte così, lasciamolo fare. Avanti Nicola, forse Nicola ha già chiuso. Nicola ci sei? Nicola ha già chiuso, fra. Va bene, dai. Purtroppo è così, fra, e cosa ci vuoi fare? Vabbè, qualcosa inventiamo, no? Poi adesso incominciano le giornate un po' noiose, diciamo, perché l'estate se ne sta andando, e allora ci dedichiamo a fare qualche cosettina così, sempre a livello personale, non è che ci dobbiamo allargare assolutamente, no, a livello personale, tutto lì, fra. Sì, no, anche poi a noi ci piacciono queste cose, stare sempre a inventare, sì. No, l'antenna ce l'ho sempre agli punti, quindi in casa non la posso fare qua a Sassari perché c'è quei radiali vetroresina che sono un po' pericolosi da manovrare in casa. Bisogna togliere quella pattina che c'hanno di vetrificata, che è pericolosa, dai, tutto lì. Sì, beh, certo, con una specie di lana di vetro, chiamiamola così. Se lo sei attento ti entra anche nelle mani, se la pulisci così, devi stare attento, magari fregarla con uno straccio prima, bene, e poi se vedi che rimane liscia anche con una piccola carta abrasivo o addirittura una lana d'acciaio o ancora meglio una spugnetta abrasiva di quella sottile con una spugna con la carta avvetrata di quella sottilissima, così almeno toglie quelle scorie che eventualmente potrebbero entrare nelle mani, tutto lì fra. E anch'io ce l'ho la manta, ma ce l'ho, solo che non la uso, non la metterò più, sono convinto che non la metterò più, però mi dispiace non darla, perché la potrei anche dar via, quando l'ho dato via, cosa ho fatto? Non ho fatto niente, mi piace tenermela, è la mia, è la manta turbo, nuova, tra l'altro, è funzionante alla grande, veramente, forse anche meglio della Game Master, non lo so, fra. Sarebbe da tenere in prova insieme alla Game Master, perché la Game Master c'è in basso rispetto a dove c'era la Mantova Turbo prima. La Mantova Turbo invece ce l'avevo molto più in alto e qualcosina di più mi dava, e soprattutto accordava anche altre frequenze, accordava. Va bene, riprendi. Sì, no, la tua antenna la vedo, ogni volta che facciamo qualche spuntino, qualche seminata da mio cognato, la tua antenna la vedo, perché è proprio quel canale lì. Ho capito, sì, è ben lì, nella strada dove c'è la scuola guida, un pochino, 20 metri nemmeno, 15 metri dalla scuola guida, dai, sono di fronte, bene. Ripeto, la mia Mantova Turbo io l'ho tutta quanta pulita, perché l'avevo rimontata, l'ho tutta pulita, l'ho ristrutturata, tutto a posto, insomma, alla grande. E l'ho messa da parte, l'ho messa, però non so io nemmeno che cosa farne, ecco. Però mi dispiacerebbe darla, devo essere sincero, anche perché non è che mi servono i soldi dell'antenna, ma quello è un altro discorso. però boh, non lo so, la verità, io non ho mai venduto niente, alle fuori di quei giorni passati, che ho dato via quattro baracchini, ho dato via, tanto cosa me ne facevo, ne avevo 12 in tutto, adesso me ne sono rimasti 8, ma anche quelli darò via, me ne tengo uno o due, no, non di più, tanto sono sempre la stessa frequenza e no, non mi interessa averne tanti, ecco, tutto io, fra. Sì, no, anche a me dispiace vendere le cose, sinceramente, la penso anch'io come te. Oppure quelle antenne sono ricercatissime, quella la venderesti a occhi chiusi, le Mantova sono cercate. Cosa volevo dire? Io anche ne ho un paio di apparati, poi avevo preso quel valvolare. L'altro giorno ho acquistato un accordatore per le altre frequenze, però per il portatilino. Una banda solo però mi accorda, peccato, avrei preferito che le accordassi tutti e due, invece me ne fa solo una, solo i 400, dai. I 144 no, però è bellino, è piccoletto, non ha capito, 201. Ok, sì, lo conosco, è uno simile, ce l'ho anch'io uno simile a quello, anzi ne ho, io in tutto ne ho tre, anzi tra non molto ne avrò quattro, uno addirittura professionale, per cui fa tutto, anche VEU, oltre a fare la 27 fa anche i 2 metri e anche l'HF, perché è una professionale, che sabato ce l'avrò, vabbè, comunque un altro discorso, ma solo così per, diciamo, per curiosità, perché voglio fare il confronto con quelli che ho, perché se no ne ho tre Rosmetri, tra questi due sono addirittura accordatori antenna anche, per cui vediamo un po', però sono della ZG e io della ZG sinceramente non ho molta fiducia, quello invece che avrò sabato, quello è professionale, è una marca seria e dunque va bene così, avanti fra. Però sta un po' scaldando l'apparecchio, un attimo che abbassa un po' la potenza. Ok, beh, c'è anche molto caldo, c'è anche molto caldo. Sì, avanti. Adesso sì, esattamente a Santiago, 5 e mezzo, vedi. 5 e mezzo, vedi già. Gianni? Va bene. Beh, cosa hai fatto, Fra? L'hai abbassato? Il capo, è tutto. Aspetta un po'. Do una cordatina. Hola. Sì, un po' abbassato, vero? Sì, aspetta già un attimo, sì, abbassato fra. Prova Gianni. Sei passato a 6, Gianni. Sì, sì, adesso. Santiago sì. Sì, sempre parlando di modulati, Sempre parlando di modulati. Santiago sì. Anzi no, aspetta. Santiago 7, Gianni, Santiago 7 modulati. Perché davanti avevo il microfono, non vedevo bene. Santiago 7 modulati. Così sì, perlomeno a me ha aumentato, poi vediamo un po' Franco adesso se ti sente meglio, vai Fra. Non ricordo la prima posizione che mi ha dato, non stavo guardando la verità. Comunque adesso è bassissimo, qui è molto basso. E qui ti segnale di 1, la radio è 2. Gianni, a me senti? Stavo con la portante. Dove sei? Dove sei già? Ogni tanto a questo mi viene la malattia di mettere la portante. Fra, io quando vedo che scalda molto, sai cosa mi sono procurato? Me l'ha regalata un amico, una vecchia ventola di computer, e ho utilizzato uno di quei caricatori di telefono a 12 volt, e quando ci ho messo anche un interruttore, quando vedo che incomincia a scaldare troppo, proprio per non rischiare, allora attacco la ventola e se la prende, funziona proprio alla grande. Io ho fatto così fra. Ha chiamato Luca sul 13, così ho capito bene. Sì, Luca sul 13, ma già ha capito Luca. Sì, capa, no, adesso sta ritornando normale la temperatura. Forse stavo un po', non dico pompando, ma con qualche watt in più. La ventola la usiamo, però ce l'ho collegata sopra l'alimentatore, che me lo tiene fresco. Io non scaldava mai questo apparato, o ci sono un po' di stazionali. A volte tu accordi dopo la panina e rimani un po' magari in disaccordo l'apparato con, tra di loro, tra i vari apparecchi. Eh beh sì, anche perché quando gli dai qualche watt, allora diciamo che le stazionali salgono di sicuro, perché finché uno usa la potenza quella normalissima va anche bene, però quando ci metti qualche watt in più è chiaro, salgono anche le stazionali, però diciamo che si potrebbe utilizzare come ho fatto io questa ventolina tranquillamente, silenziosa anche, una ventola di computer, me l'aveva regalata Luca, me l'aveva regalata che poc'anzi era qua su questo canale, e ci ho messo un pezzo di filo, una spina con interruttore, dunque sto utilizzando quell'alimentatore del telefonino, siccome ne ho diversi di questi alimentatori, ne ho utilizzato una a 12 volt, perché è a 12 volt questa ventolina, e devo dire che funziona alla grande. Io ho pregato direttamente all'alimentatore, anche lì ho messo un interruttore anche io piccolino, qui da pannello, da quei piccolini, e l'accendo quando voglio. Però, ripeto, mi raffredda l'alimentatore, sull'apparato non c'è stato mai bisogno, Mia Franco, qui. Avanti. Mia Franco, Corrado. Sì, ciao, Cla, vabbè, tutto a posto. Tutto bene, tutto bene, ci fosse un po' più di fresco. No, ero poco fa, stavo preparando a mangiare il cane. Avanti, giù. Sì, meglio, l'ho fatto, infatti... avevo quel dubbio, ma siccome io ho l'alimentatore, c'ero quelli switching e c'era la ventola, no? Dunque si mette in funzione la ventola, ma era un po' rumorosa questa ventola, allora ho fatto come ha fatto Claudio, ci ho messo una resistenza e ho abbassato i giri di questa ventolina. Per l'alimentatore va ugualmente bene, io ci sono tutta la sera in radio, dunque raffredda ugualmente, però è diventata molto ma molto più silenziosa. Prima si sentiva molto attraverso il mio microfono, si sentiva molto la ventola, invece adesso suppongo che la sentiate molto di meno, ma molto di meno senz'altro. Vai fra. No, va più che bene. No, la mia è silenziosissima, eppure sono ventole che mio figlio le cambia dal suo computer, che lui quando sente leggermente rumorose le cambia. Soltanto che cambiando posizione, ma usandole in orizzontale, non vibrano come usarle in verticale, e quindi io le posso utilizzare ancora per parecchi anni, capito? Avanti Claudio, tutto bene quindi? Sì, fra, ci tiro avanti. No, ma l'ho fatto anch'io quel lavoro lì. Infatti gli ho detto a Giulio, fallo perché è un lavoro fatto bene, capito? Almeno rallenti la velocità della ventola e non si sente tutto quel baccano. Allora, la mia è sotto, quindi gli apparati ce li ho sotto a un piano e gli alimentatori sono un po' sotto, quindi sono isolati. I rumori non penso che si senta, vai. No, non si sente assolutamente niente. Ok, confermi anche tu Giulio, sì, silenzioso, prova a lasciare la portante. Sì, va benissimo qua, no, non c'è problema. Va benissimo veramente. Anch'io guarda un attimo lascio la portante, ma io la sento ma è pochissimo, è la metà come rumorosità, la metà di come la prima. Per cui io ce l'ho anche vicino e non è che ce l'ho molto lontano dal microfono, però purtroppo il tavolino, quello che è la stazione, l'ho voluta collocare qua in questa zona, se no avrei potuto fare le massada, c'è tutta la massada quanto mio lì, potrei utilizzare quella, ma soprattutto l'estate massada c'è troppo caldo, si me lo fa fare. Mi sta bene qua, anche perché a volte posso ascoltare la notte, tante volte ascolto anche l'80 metri, ascolto la notte, così ascolto dagli amatori, per cui preferisco tenerla qua, metto le cuffie e ciccia. Va bene, avanti Franco. Sì, no, si sente appena, ma non dà nessun problema alla modulazione, così. E che poc'anzi, qualche ora fa era acceso il portatilino, stava facendo un po' di ascolto, c'era gente del Papi Nostro, dai, utilizzando quei punti. Però qua Sassari, no. Cioè, vabbè, alle volte quando non c'è nessuno io mi metto all'ascolto, mi metto le cuffie, questo la notte, durante il giorno no, le cuffie durante il giorno non le uso, non c'è motivo, anche perché durante il giorno sono solo in questa stanza, ma la notte c'è mia moglie che lì si guarda le trasmissioni delle donne, sai, alla televisione, e dunque non posso nemmeno parlare, ma la posso ascoltare, metto le cuffie e ciccia. Tutto lì, Michael. Gappa, infatti, no, io la notte non accendo niente, io fra un po' spengo tutto, oddio, un baracchino, due baracchini, vabbè, un baracchino è un'altra radioserie, beh, giusto per fare due chiacchiere, per rimanere senza. Va bene, come figlio sei fra, sei rientrato? No, anzi, ne ho chiesto un paio di settimane. Allora, una volta invece me ne ha dato solo una, purtroppo c'erano problemi al lavoro e sto seguendo questa impresa che sta seguendo l'asfalto dall'isolamento della sede ferroviaria. E quindi ho fatto Sassari Alghero, Sassari Sorso, una parte anche di Sassari verso Usido e adesso stiamo isolando il piazzale, quindi sono qua a Sassari questi giorni. No? Tutto qui. E una settimana ne ho fatto a luglio. Va bene, tanto mi adesso si ritorna, vedrai che fra un po' torniamo tutti in ferie e non si ne va a vedere più, così siamo tranquilli, visto che non abbiamo capito un accidente, cosa siamo andati incontro, cosa potevamo rischiare, vabbè, pazienza, vai Giulio. Vediamo che la gente metta a giudizio qua, perché quello che hanno fatto è proprio da scellerati, non va bene così, non va bene. Eravamo praticamente all'isola qui e poi invece sono arrivati i vacanzieri di che portano soldi, ma quali soldi portano qua? I soldi che portano qui poi se li riportano via, perché tutti i locali di Porto Cervo e di quella zona lì, della Costa Smeralda, sono tutti quanti forestieri solo, sicché i soldi se vengono li spendono lì e poi loro se li riportano via. Non è che rimane molto alla Sardegna, la carità, ma comunque, speriamo bene. Pensate che non ci sono parolane, ma incolpandoci che la colpa è dei sardi, mentre invece la colpa è evidentissima. A proposito, oggi mi sembra che c'è Porro che fa proprio una tradizione a riguardo di quello, per difendere la Sardegna, perché gli imbecilli hanno incolpato i sardi, che siamo noi untui. Noi siamo tutti, ma noi eravamo tranquilli, sono loro che sono arrivati con la loro mania delle vacanze eccetera, ma le vacanze si fanno quando si possono fare, ma in questo momento no, secondo me non era tutto il caso, loro hanno fatto prevalere il dio denaro alla salute, vabbè comunque, pazienza, si prende fra. Guarda, l'unica colpa che abbiamo noi sardi, secondo me, è di non averli controllati bene prima di entrare, invece purtroppo abbiamo fatto entrare qui cani e furci e poi alla fine ci hanno impestato tutti, così è claro. Eh sì, purtroppo sì, è un casino. Dimmi, Santiago 9. 9-5 qua. No, molto bene, invece prima tu dalle parti alte non ti sentivo, vedi, per me il quadrato è una zona negativa, vuol dire. Ah cavolo, avevo capito il quadrato. Sì, no, era acceso però l'apparato, quindi non ti sentivo quando era il quadrato. No, molto bene, una radio tranquilla, niente, senza fronzoli, semplicissima, chiara. L'ascolti bene tu Giulio, sì? Sì, lo sento bene, Santiago sì, ma la radio è buonissima, Gianni. Va bene, signori belli, è arrivato il momento che vi devo lasciare, dai. Sono le 8:10 circa, per cui vi ringrazio per la chiacchierata, è stato un piacere. Ciao Franco, ciao Claudio, ciao Gianni. Gianni, non capisco cosa gli hai fatto a quel portantista, perché quando parlavi tu ti metteva sempre la portante. Va bene, salutoni, carissimi amici, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti. Io ascolto il vostro finalino e dopodiché chiudo. Avanti fra. Ciao Giulio, sempre un piacere sentirti. Un abbraccio a te e famiglia. Alle prossime, avanti Claudio. Io nel frattempo ho commutato l'altra radio. Ciao Giulio, anche a te un saluto. A te. sempre famiglia, buona cena, buon tutto, grazie delle tue chiacchiere, grazie delle prove. Avanti Gianni. Gianni, c'è la macchina. Cosa stai usando adesso, Cla? Cosa? Cosa stai usando adesso, prima? Quello prima era un apparato normale, un baracchino, cos'era? Sì, quello poco fa era un baracchino, questo è un Barrett 950 SSB. Praticamente è un veicolare HF da 0 a 30, da 1,6 a 30 MHz con l'MC60. Sembra un K, forse il microfono lo fa sembrare. Sì, questo è il K, le fa la barba ai capelli, non è perché è un veicolare grande quanto il K, diciamo. Però si può mettere anche in macchina, capito? Le fa barba ai capelli, è un digitale completo di tutto, c'è anche il GPS incorporato, figurati. SDR, c'ha tutto digitale, non ha VFO, lavora tutto via computer, ok, e c'ha 125 watt AM USB e l'SB FM, non è perché è americana, e la massima potenza, la minima potenza è 25 watt, che è quella che sto usando io adesso. No, ma va bene, va benissimo, cazzo. Facciamo una radio presente, forte, nulla da inviare a nessuna radio. Certo, che marca hai, mi hai detto? È un Barrett, entra nel sito, Barrett, lì c'è trasmettitori Barrett, sono radio professionali di alto livello, erano anche abbastanza costosi. Me l'ha fatto avere un amico perché lui ce l'ha uguale, si è preso il modello superiore a questo e non è mai alto questo qua. C'è trasmettitori Barrett, questo è il Barrett 950 SSB, controllalo, molto bello, è tutto digitale, praticamente c'è un display enorme, è tutto illuminato, tutto. Quindi questa è una new entry, nuovo, quindi? Sì, praticamente stamattina me l'ha consegnato, capito? Molto bene, tutta la sera provando microfoni, facendo, perché c'è il connettore a 8 come il Kenwood, e avevo paura che non andasse bene in 60, che mi andasse in tilt la radio, invece poi ho attaccato il cavo USB, il vecchio praticamente di B9 che si usava prima al computer, quindi mi sono collegato al monitor del computer e dal menu ho visto bene le connessioni ed è uguale al K, quindi gli ho messo un 60 che ci avevo, altrimenti stavo usando un microfono normale e la modulazione era molto bassa. No, questo c'ha dei picchi potenti, allucinanti, di modulazione, molto forte. Ehi, c'è qualcuno che mi chiama? Sì, c'è dei picchi bene di modulazione, figurati che con la minima potenza 25 watt modula intorno ai 50. Con la massima arriva anche a 130, 140 modulati, ma la portante bianca proprio muta è 120 watt, così lo dava a casa, c'è un dissipatore enorme, c'ha tre ventole, figurati, non una, tre. È molto bella, guardalo e ti rendi conto, molto bello. Se mai ti mando la foto dopo. E cosa stavo dicendo, un'altra cosa, sì, completo di tutto, insomma, sono quelle professionali che poi vanno attaccati al computer, e puoi usare anche il secondo attacco con la microcornetta, puoi usare in barca, perché c'è anche tutta la parte dell'HF marino, che è molto completo, molto molto bello, selettivissima. Avanti chi mi ha chiamato? Avanti chi ha chiamato, Claudio? C'è qualcuno che mi ha chiamato? No, non risponde più. Guarda, lo fa. Lì c'è trasmettitori Barrett, questo è il 950 SSB. Allora, 950 SSB. Adesso, guarda, questo non ho disponibilità, se lo incarico al telefono. Però appena ho 5 minuti me lo faccio. Comunque complimenti, una bella bestia, dai. E in digitale ce n'è gente, sì? Ce n'è. Oramai gli HF sono tutti digitali, non digitali come intende qualcuno, digitali a questi livelli, cioè proprio da collegare al computer e fare tutto via computer. E c'è Gianfranco che è molto apprezzato, proprio lui mi ha fatto avere questa radio perché è veramente professionale. Ma ti ripeto, ci ho messo un po' a capirla, ci ho messo anche perché il manuale è tutto in inglese. e quindi non è che ne capivo molto, però dal computer ho visto che si riesce a capire meglio i passaggi che devi fare, insomma. Dai. Qualche tutorial quindi l'hai provato su come si usa, dai, su YouTube, così? Direttamente ti da lui direttamente, tu attacchi c'è dietro, c'è il cavo come il computer, come un monitor di computer, gli attacchi il cavetto e poi al monitor del computer, c'è un monitor del computer, l'ho collegato lì e praticamente tutto il menu della radio me lo fa vedere sul computer, sul monitor, quindi riesce a capirlo meglio, capito? No, ho capito male io, allora ho capito. Bene, dai, adesso io ti saluto che qui è pronto. Un abbraccio a te e famiglia. Se no ti fai dare un aiuto anche da, come si chiama? Mari, Ilaria, ha fatto inglese? Sì, infatti lei mi ha fatto un po' di... mi ha dato un input, perché c'era appunto delle cose che già capivo, ma altre non le capivo, già voleva dire. Poi alla fine, una volta che entri lì sulla parte del processore, Mickey Gay, quelle cose lì, sono entrato per vedere i piedini, c'erano... la numerazione c'era uguale, perché anche quello c'era l'alimentazione a 8, quindi per essere quello che mi interessava sono bruci tutto, capito? Invece l'alimentazione del microfono corrisponde allo stesso puntale della radio e quindi mi sono fidato, altrimenti non l'avrei messo. Manco a provare, perché bruci finali. Va bene, Fra, un abbraccio a te, Anna, Carletto, un saluto a tutti. Contraccambio anche Anna, la Bianca che sta lavorando, c'è alle 10, comunque ti saluta anche lei. Ci sentiamo alle prossime, grazie delle due chiacchiere. Ma figurati, è sempre un piacere. Dai, alle prossime, buona serata, buon tutto, ciao ciao. Ciao, Fra.